sei cambiata la mia vita per passare degli anni. Forse ho solamente cercato di limitare i danni. Ho deluso chi mi sognava laureato. Mi sono trovato a mio agio sotto immaginato. E io non rido come ridi tu. Io non rido come ridi tu. No, io non soffro come soffri tu. Io non mi diverto con cosa ti diverti tu. Cos'è cambiato in questi anni della mia mentalità? Forse nulla, forse un po' meno di luce in quello che sarà. Non ti vedrò mai della presenza, ma tanto non ti accorgerai mai della mia assenza. E io non vivo come vivi tu. Io non credo a cosa credi tu. Io non mi adeguo come ti adegui tu. Io non sono tranquillo come lo sei tu. Cos'è cambiato in me? Ora lo so. Sono più teso per quello che non ho. Ma se bisogna comprare anche l'amore, lo lascio a te e sei il migliore. Io non vivo come vivi tu. Io non amo come ami tu. Io non odio come odi tu. Io non rispondo come rispondi tu. Cos'è cambiato oggi o meno amici? Perché l'amicizia comporta sacrifici. E se ti odore di convenienza, preferisco la solitudine e pazienza. E io non vivo come vivi tu. E non voglio quello che vuoi tu. Io non adoro cosa adori tu. E ricordati che al mondo non ci sei solo tu. E ricordati che il mondo non ci sei solo tu. E ricordati che il mondo non ci sei solo tu. E ricordati che il mondo non ci sei solo tu. E ricordati che il mondo non ci sei solo tu. E ricordati che il mondo non ci sei solo tu. E ricordati che il mondo non ci sei solo tu.